essendoci tutto questo problema sulla sicurezza e sui perfidi rumeni e quant'altro che vanno in giro, perché lo fanno questi cattivi criminali? Perché in Italia non c'è sicurezza del diritto, sicurezza della pena. E d'altra parte, se io fossi un perfido criminale rumeno, dove andrei a delinquere? In un paese europeo nel quale ci fosse un simbolo forte della incertezza della pena. E qual è il paese europeo dove il leader rappresenta più palesemente l'incertezza della pena? È l'Italia, perché Berlusconi è la rappresentazione fisica del fatto che un furbacchione possa cambiare legge a suo piacimento e evadere ogni sorta di possibile condanna e via dicendo, anche diventare premier addirittura. Quindi se io fossi un banditello andrei là dove, per definizione, lo Stato è gestito da un signore che ha saltato tutti i passaggi legati all'equità e all'applicazione delle pene. Quindi il peggior pericolo dal punto di vista di comunicazione per l'aumento della criminalità è esattamente il nostro premier. Questo credo che qualcuno glielo stia suggerendo da tempo e penso che questo sia uno dei motivi del suo invecchiamento precoce e della sua ansia, che è sempre più evidente.